la versione di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, eccomi in diretta alle 16.31, primi 53 secondi agli studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia come sempre dell'ascolto in diretta o in podcast, e vi ricorda il numero di telefono per intervenire sulla domanda che vi farò immediatamente introducendo il tema della nostra puntata. Il numero è 800 24 00 24. Per le opinioni invece con gli sms 349 238 6666. La domanda è questa: poiché si è svolta stamattina l'assemblea di Confindustria, il presidente del consiglio non è andato all'assemblea di Confindustria, era in visita a Melfi, lo stabilimento più avanzato Fiat in Italia, e Marchionne, l'amministratore delegato di Fiat Chrysler, non ha perso l'occasione per dire che la linea del presidente del consiglio è quella giusta. Non vi chiedo un'opinione su questo, perché io sorrido alle polemiche, ma Renzi non è andato in Confindustria in Fiat, perché in realtà Renzi è sostenuto sia da Confindustria sia dalla Fiat, quindi per lui è un'operazione win-win comunque. Ma detto tutto questo, invece, l'interrogativo che vi rivolgo e riguarda soprattutto i lavoratori dipendenti, i lavoratori dipendenti e soprattutto quelli privati, anche quelli pubblici, ma soprattutto quelli privati, è relativo esattamente al punto su cui le strade di Fiat e Confindustria si sono 2 anni fa separate. E la domanda è questa: se avete visto come funziona il nuovo contratto Fiat, un contratto aziendale, quindi in deroga rispetto a quello nazionale di categoria. E vi dico solo questo: dei 1.400 euro di un medio operaio, non è il livello più basso ovviamente dell'inquadramento operaio, ma di un medio operaio nel 2015, possono arrivare a raddoppiare fino a 2.800 euro entro 3 anni, e con saldo al quarto, attraverso il fatto che nell'intesa aziendale Fiat i sindacati che l'hanno sottoscritta, non la FIOM, bensì la CISL, la UIL, l'UGL eccetera, ma non la FIOM, hanno raggiunto un'intesa con l'azienda per la quale la parte variabile del salario definita dal contratto, e cioè un'indennità di efficienza e un'indennità di premio, scavalcano la parte fissa stabilita sempre nel contratto. La mia domanda è: voi sareste disposti a una cosa simile come lavoratori dipendenti? Cioè, accettereste l'idea di condividere con l'azienda A, la definizione di come si misura l'efficienza e in più anche il premio al merito individuale, B, di far dipendere dall'andamento dello stabilimento e dal vostro impegno personale, perché l'efficienza riguarda lo stabilimento, gli obiettivi di stabilimento, poi c'è un premio al merito che riguarda anche le squadre e gli individui. Sareste disposti a scommettere così tanto sull'andamento, sul mercato, nel tempo che avrà la vostra azienda, impegnandovisi dentro come una specie di condivisione di responsabilità, al punto tale da accettare l'idea che una parte prevalente della vostra retribuzione si misuri, si identifichi con l'andamento dell'azienda? Ecco, questo è il punto di fondo. Io l'ho fatto con dei numeri alla mano perché mi interessa capire come la pensate. Ovviamente io non mi nascondo e so che moltissimi dicono no, perché il rischio di azienda riguarda l'azienda e il lavoratore dipendente non può far dipendere in maniera così elevata la propria retribuzione dal rischio di azienda, che dipende anche dalle strategie che l'azienda, il suo management assume sul mercato, quanto è bravo il management a mettere in linea prodotti e processi che faranno andare l'azienda meglio rispetto ai concorrenti o peggio. Come si può accettare l'idea che il lavoratore dipendente accetti che così tanto del suo salario dipenda da decisioni che vengono assunte in alto? Lo capisco. Dall'altra parte però questa modalità è una modalità rivoluzionaria, perché come è evidente crea un meccanismo di incentivo a migliorare la produttività complessiva con tutti che sono convergenti. Mi rendo conto, dietro ci sono più di 100 anni di storia di contrapposizione sindacale e politica, io rispetto le opinioni di tutti, ma mi interessa questo punto di fondo da parte vostra. Dall'altra parte abbiamo un ospite che è un addetto ai lavori, cioè è un esperto di diritto del lavoro, insegna diritto privato e diritto del lavoro alla Bocconi, al quale chiedere alcune cose per farvi capire meglio come funziona da una parte il contratto nazionale e dall'altra la possibilità della contrattazione in deroga, oppure terza cosa, la contrattazione aziendale che è consentita dal contratto nazionale e non è in deroga come quella Fiat rispetto al contratto nazionale, perché è con noi il professor Maurizio Del Conte, io lo ringrazio. Buon pomeriggio, professore. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto vediamo di capirci, perché oggi Squinzi ha avuto un accenno anche lui nella sua relazione alla contrattazione aziendale e ha detto l'essenziale per le imprese iscritte a Confindustria, che quindi riconoscono ancora il valore del contratto nazionale di lavoro, è quello di evitare la sovrapposizione dei costi della contrattazione nazionale con quella aziendale, che a dire la verità a me non è sembrato una maniera molto calorosa di difendere il contratto nazionale di lavoro, perché identifica un problema, non una possibilità. E a questo punto mi viene da dire che chi lo fa in deroga come Fiat, grande azienda, eccetera eccetera, ha più ragioni che torto, se io sento solo quello che dice Squinzi. Partiamo di qua. Lei come l'ha letto questa frase di Squinzi? C'è un bivio secco tra contratti in deroga e contratto nazionale oppure no? No, secondo me questo è un falso bivio. In realtà il contratto aziendale è un contratto che si innesta sul contratto nazionale, e in Italia noi dobbiamo uscire dall'idea della deroga, ma dobbiamo entrare in una logica di diversa regolazione, non è un gioco di parole. Il contratto nazionale è una livella che, come tutte le livelle, si pongono a un punto basso della linea di distribuzione delle diverse realtà aziendali sul territorio. Perché? Perché deve essere inclusivo, deve comprendere anche la industria poco competitiva di un'area poco competitiva del paese, che può stare sul mercato soltanto se gioca su un basso costo del lavoro. Il risultato qual è? È che abbiamo un lavoro pagato poco che produce poco, quindi bassa produttività, bassi salari, bassa crescita. In realtà noi abbiamo, io penso, in Italia una condizione di estremo favore per sviluppare la contrattazione di secondo livello, che, ripeto, dobbiamo smettere di continuare a pensare alla deroga, perché sennò immaginiamo che esista questa normalità appunto inderogabile o derogabile solo in via eccezionale, che diventa un tabù. In realtà noi dobbiamo pensare che a livello aziendale si fanno altre regole che si occupano di altro. E cos'è quest'altro? È il recupero di produttività, perché non è che l'impresa non è che la Fiat dà raddoppia il salario previsto dal contratto nazionale per generosità, ma certo, raddoppia il salario del contratto nazionale se un'ora di lavoro gli vale il doppio di quello che gli valeva prima dell'introduzione di questo meccanismo. Quindi si occupa d'altro. Trovo che sia estremamente miope una visione che pensa di ricondurre appunto a quella famosa mediana bassa del contratto nazionale il punto di caduta della tutela dei diritti, perché così in realtà si toglie un po' a tutti, non è che si dà un po' a tutti in più. Se noi basta guardare il confronto, insomma, con gli altri paesi con i quali dobbiamo confrontarci, non è che dobbiamo andare a confrontarci con paesi che hanno un livello di sviluppo economico molto più basso, perché allora sappiamo che se ci confrontiamo con l'Est Europa abbiamo anche dei salari più bassi, ma più alti, ma è chiaro che noi ci dobbiamo confrontare con Germania, Francia, Inghilterra, dove mediamente i salari sono più alti, ma dove mediamente la produttività è più alta, quindi un'ora di lavoro produce di più. Se non si fa in azienda non si fa da nessuna parte. A livello nazionale è impensabile di costruire un sistema che premi la produttività, perché non c'è un incentivo per il singolo lavoratore. Il singolo lavoratore può essere incentivato in funzione della specificità di quell'azienda, cioè deve poter vedere che il suo impegno ha un riflesso diretto sull'azienda, la quale gli restituisce l'impegno che ha profuso. E quindi è nelle aziende che si può valutare meglio l'utilizzo degli impianti, l'andamento dei turni rispetto a, come risposta all'andamento della domanda in quel settore o in quel particolare prodotto. Però ci sono comunque diverse ipotesi, professor Del Conte. Per esempio, in queste settimane si è letto sui giornali del contratto Lamborghini. Lamborghini appartiene a un gruppo automobilistico tedesco che ha investito in Italia e continua a fare benissimo. Per fortuna che siamo riusciti a farli venire in Italia e a dare un futuro a quel prestigioso marchio storico dell'eccellenza automobilistica italiana. Anche lì, come nella tradizione tedesca, c'è un premio molto elevato in media, però nei grandi gruppi tedeschi che hanno questo modello di gestione responsabilizzata con la gestione duale, il consiglio di sorveglianza in cui sono i sindacati e così via, il premio è anche molto elevato. Volkswagen l'anno scorso ha dato un premio di migliaia di euro a tutti i suoi dipendenti visti i risultati, però è un premio non differenziato, o per meglio dire c'è una componente differenziata ma piccola per stabilimento, ma per il resto è un premio non differenziato. La novità dell'intesa Fiat è che c'è sia l'efficienza di stabilimento, il che significa una competizione aperta tra i dipendenti dello stesso gruppo ma che lavorano in diversi stabilimenti, una competizione aperta per fare meglio degli altri, meglio dei colleghi, e poi anche una parte di premio di merito aggiuntivo. Rispetto alla storia sindacale delle relazioni industriali italiane, molti sostengono, professor Del Conte, che in realtà al massimo noi potremmo arrivare alla via tedesca e non a quella Fiat. Lei che pensa? Guardi, sono almeno 20 anni che si discute della via tedesca di maggior coinvolgimento, se non partecipazione, dei rappresentanti dei lavoratori, in modo da poter appunto verificare poi che gli obiettivi ai quali sono legati i premi siano stati raggiunti, in quale misura, e quindi distribuire i premi stessi in modo da responsabilizzare il sindacato e in modo quindi di avere un sistema di relazioni collaborativo, relazioni industriali collaborative. Non c'è dubbio che la cultura delle relazioni industriali italiana parte da una storia di conflittualità molto distante da quel modello tedesco di cui abbiamo appena parlato. Perché oggi si dice che tutto sommato però potremmo convergere verso il modello tedesco? Perché siamo ancora più distanti da una cultura del premio all'individuo, cioè fra le due distanze abissali che abbiamo rispetto a entrambi i modelli, quella ancora maggiore è quella che premia il singolo individuo. In altre parole, si crede che si potrà far fatica ad arrivare a una cultura partecipativa, ma sarà più semplice perché almeno potrà essere gestita collettivamente dal sindacato. Attenzione però a prendere come modelli Lamborghini o anche Ducati, che certo, è un altro modello tedesco proprio in funzione di queste acquisizioni, perché sono realtà un po' particolari, certo, cioè sono realtà piccole dove il valore aggiunto è molto elevato, certo, e dove l'universalità è più facile. Non c'è dubbio. Naturalmente conto è fare un'universalità sulla Lamborghini, un conto è fare un sistema universale in Fiat. Sono due sulla Panda e sulla 500. No, ha perfettamente ragione, ringrazio di aver sottolineato questa che è la differenza in fondo anche secondo me. Nel frattempo noi torniamo tra 60 secondi perché vedo che ci sono molte opinioni vostre. Vi voglio in poche parole invece dire che cosa avviene, una vicenda sintomatica invece dei rapporti di lavoro e della tutela dei diritti nel mondo pubblico. Sto parlando di una vicenda che mi ha molto colpito stamattina leggendolo su un giornale del Nord-Est. Il protagonista è un 52enne di Carbonera, quindi stiamo parlando del Veneto, si chiama Davide Gabrielli, è stato direttore dei servizi generali amministrativi in un complesso di istituti pubblici, stiamo parlando quindi della scuola pubblica a Povegliano e Villorba, e lo scorso dicembre ha patteggiato una condanna per l'accusa di peculato, quindi rito abbreviato, lui ha riconosciuto le sue colpe perché e ha patteggiato una condanna di 2 anni di reclusione perché lui nell'esercizio delle sue funzioni di funzionario amministrativo di grado elevato delle scuole pubbliche aveva sottratto 197.000 euro dalle casse delle scuole con finte supplenze, dichiarando di utilizzare il denaro pubblico delle scuole per ragioni che poi erano insussistenti, perché poi finiva invece sui 2 conti correnti cointestati con la madre. Scoperto, patteggia, condanna. Nel frattempo era stato licenziato, licenziamento senza preavviso come prevedono le norme della pubblica amministrazione, a fronte, ripeto, di un gravissimo reato, tantissimi soldi presi e di una condanna patteggiata. Bene, la notizia è che dopo il patteggiamento in sede penale il signor Davide Gabrielli ha impugnato con i suoi legali il provvedimento di licenziamento senza preavviso nella pubblica amministrazione, nella scuola, davanti al giudice del lavoro, e il giudice del lavoro ieri gli ha dato ragione, quindi lui verrà reintegrato nel servizio e anzi lo Stato gli dovrà versare gli stipendi di questi 2 anni che non gli aveva versato perché era stato licenziato. Lascio a voi il commento su una vicenda di questo tipo, perché a me fa letteralmente, e lo dico con rispetto per questa persona che però si rubava i soldi dalle scuole, io non capirò mai un paese in cui i giudici del lavoro prendono decisioni di questo tipo, visto che stiamo parlando di rappresentanza, contratti e produttività dei dipendenti privati. Dall'altra parte queste sono le vicende della tutela del diritto del lavoro nel mondo pubblico. Torniamo tra 60 secondi, strade. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, eccoci qua, tornati in diretta alle 16.49, 30 secondi, stiamo parlando, vi ho rivolto una domanda perché ci stiamo interrogando sui contratti aziendali per il premio in merito, abbiamo parlato di quello Fiat, ho fatto anche una cifra, abbiamo parlato di quelli di modello tedesco, della difficoltà per i sindacati di accettare una cosa di questo genere, ma io la domanda che ho rivolto a voi è se siete disposti voi ad accettare una cosa di questo genere come lavoratori dipendenti. Devo dire la verità, molti rispondono, per esempio come Beppe, che dice disposto, però attenzione, gli obiettivi devono essere oggettivi, cioè misurabili in maniera incontestabile, no se valutato soggettivamente, perché io di dipendere soggettivamente da come la penso, se sto simpatico al quadro non posso accettarlo. Alcuni altri osservano, dipende dall'azienda, dal prodotto, dal management, non si può fare un'osservazione generale, infatti alcuni aggiungono più l'azienda è grande minore è il rischio di sbagliate decisioni del manager a breve, e quindi ovviamente cosa diversa è accettarlo in un'azienda piuttosto che un'altra. Queste mi sembrano tutte osservazioni molto ragionevoli, il che significa appunto che dipende da azienda a azienda fare la contrattazione più giusta. Sapete che noi abbiamo molte difficoltà per il no dei sindacati, di molti sindacati, a fare una svolta davvero di questo tipo. I sindacati concepiscono i contratti aziendali come integrativi rispetto al fatto che il più del salario viene comunque deciso per fasce dal contratto nazionale, dal contratto nazionale di lavoro. Allora sentiamo anche alcune telefonate, ma aggiungo l'esempio che vi ho fatto prima del funzionario scolastico pubblico che viene riammesso in servizio pur essendo stato condannato, avendo patteggiato in penale perché aveva rubato 197.000 euro dei soldi della scuola, e l'altra faccia della medaglia di come funziona poi l'Italia, perché lì c'è un giudice del lavoro che ha preso questa decisione. Io non posso che dire che non capirò mai come funzionano queste robe nel pubblico impiego. Allora, come risposta alla domanda, accettereste voi una cosa tipo Fiat e così via? Sentiamo innanzitutto Luca che ci chiama dalla provincia di Piacenza, prego Luca. Sì, buongiorno a tutti. Allora, il discorso è questo: io lavoro in una grande multinazionale americana, sì, e io ho già 60% di stipendio fisso e 40% di stipendio variabile legato non solo ai miei obiettivi, ma anche al margine di contribuzione, al margine operativo aziendale e anche a tutta la performance Italia. Lei non, lei non è un dirigente però. No, io sono un quadro, sono un quadro, non sono un dirigente, ma da noi è così, cioè è così quasi per tutti, e devo dire che noi, se lei prende i nostri stipendi, il solo stipendio è mediamente più basso della media di un mio pari di un'altra azienda, ma se io gli sommo anche il variabile, divento mediamente più alto. Allora, io dico la mia opinione, poi dopo mi dica lei, Giannino, se è d'accordo o no. Allora, noi parliamo di flessibilità del mondo del lavoro, di creazione di posti di lavoro. Secondo me questo è il modo giusto. Non è dire ti posso licenziare quando voglio, per esempio come nuovo Jobs Act o dal contratto a tutele crescenti. Contratto a tutele crescenti dove uno, se uno arriva in ritardo un'ora o che sta antipatico al capo, può essere mandato via. L'azienda va bene, io guadagno di più. L'azienda va male, io guadagno di meno. Quindi cioè lei dice il vero problema non era l'articolo 18 da cambiare, ma è quello di implementare schemi di retribuzione fortemente premiali sul risultato, come nel suo caso. Anche per me l'articolo 18 non era un gran problema, però questo oramai me la tengo in saccoccia, come dire. Piero da Roma, sentiamo l'opinione di Piero. Buonasera a tutti. Sì. No, volevo portare una mia esperienza imprenditoriale. Ora, io sono un amministratore di una società nel mondo dei servizi aziendali, quindi nel mondo dei call center, eccetera, e ovviamente è un mondo molto legato alla produttività, perché le commesse sono pagate soprattutto sul volume delle attività e sulla qualità dei servizi resi. In associazione, quindi in Confindustria, io mi sono sempre battuto, ma purtroppo non riuscendo mai a sfondare, nel cercare di non adottare il contratto nazionale, nella fattispecie delle telecomunicazioni, come certo, parametro, esatto, ma bensì utilizzare contrattualistica aziendale. Cioè erano i suoi colleghi imprenditori di settore a non volerlo? Sì, perché loro ovviamente si legavano ai committenti, i committenti avevano il contratto delle telecomunicazioni e quindi chiaro. Poi, però perdendo di vista il fatto che mentre le nostre società sono legate potenzialmente esclusivamente alla produttività e il conto economico di una società di call center il 65%. Ma i dipendenti come la pensano? I dipendenti in realtà comunque sia sono, adesso io abbiamo cercato di mettere comunque dei bonus legati alla marginalità delle singole commesse. Però rimanete incatenati quindi al contratto di categoria, quindi sono anche tra gli imprenditori, come vedete, le difficoltà, mica solo sindacato dipendenti. Salvatore da Caltanissetta, però i pochi secondi, tu sei favorevole o contrario? Sì. Rapidamente sono favorevole perché lo ritengo fortemente motivante e personalmente ritengo motivante la partecipazione agli utili aziendali. Io temo, cari ragazzi, che non siamo rappresentativi davvero in questa trasmissione. Abbiamo pescato telefonate, non le abbiamo scelte. Mi sarebbe piaciuto anche sentire tanti ragionamenti sul no. Ci torneremo sopra e magari chiederemo a questo punto anche al professor Maurizio Del Conte di tornarci sopra, perché questa è una vera svolta da compiere nel nostro paese. Continuate con la 24, appuntamento come a domani.